La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Amici all'ascolto, un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Un'ora di cinema e una prima puntata di agosto, un agosto che per il momento non promette moltissimo sotto il profilo delle uscite. Questa settimana per esempio sono solo due, faremo peggio la prossima quando ci sarà solo un nuovo film, ma insomma siamo proprio nel momento degli ombrelloni aperti e con tutte le parole che si fanno sull'allungamento della stagione in realtà è ancora un po' una chimera. C'è peraltro un film che, come vedremo, sta ancora spopolando nelle sale come il nuovo capitolo della saga di Harry Potter. I due film che escono hanno discreti livelli di interesse, accontentiamoci visto appunto il momento della stagione. Si tratta di una commedia per famiglie come Immagina che, della quale parleremo fra poco, e di un film d'azione action movie puro come 12 Round, protagonista l'ex ormai wrestler, ormai attore John Cena. Ma parleremo anche tanto di festival, perché questa settimana è stato presentato il Festival di Venezia con tutto un coté di proteste da parte degli attori e dei registi italiani. Sapete i problemi in cui si dibatte il mondo dello spettacolo italiano, con i tagli al FUS, con la mancanza di fondi, con il rischio di chiusura di molte sale cinematografiche, e quindi c'è stata protesta a margine della presentazione del Festival di Venezia. Ma c'è un altro festival internazionale di straordinaria qualità, come sempre, che è il Festival di Locarno, che sta per partire. Ne parleremo con il suo direttore, Frederick Mere. Poi non mancheranno ovviamente le anticipazioni dagli Stati Uniti, tutte le novità in DVD e il gioco, il nostro DVD game, che ogni settimana vi permette di vincere tanti DVD. E allora noi cominciamo con il primo film, la prima novità in sala, dicevamo, una commedia per famiglie, si intitola Immagina che, protagonista Eddie Murphy. Cominciamo subito a entrare nel vivo ascoltando un pezzo del trailer. Amore, muoviamoci, papà va un po' di fretta. Possiamo fare i pancake? Ah, non so se ho gli ingredienti per farli. Mi sa che il latte è andato a male. No, non è possibile, l'ho controllato io. Per Evan Danielson la vita era tutta lavoro. Avevi detto che ti travestivi. Papà ha tanto da lavorare. E niente divertimento. Ti dissi che un giorno non avresti potuto più portare la copertina a scuola con te, ricordi? Beh, quel giorno è oggi. Ma l'aiuto gli arriverà. Dove sono i miei appunti? Credo che siano di là. Oh mio Dio. Dall'ultima persona che avrebbe potuto immaginare. Hai disegnato sui miei fogli di lavoro? Persone che si baciano? La principessa dice che quelle società si sposeranno. Tu come fai a sapere del prossimo matrimonio? Io ho il... Dove le prendi queste informazioni? E allora, dove le prendi queste informazioni? Questo chiede il capo di Evan Danielson al suo manager. Evan Danielson, appunto, Eddie Murphy, è un mago della finanza, avete sentito, sempre molto impegnato, poco tempo da dedicare alla figlioletta Olivia. E però a un certo punto tutta questa fiducia in se stesso viene a mancare, e proprio in quel momento, quasi casualmente, è proprio sua figlia che gli verrà incontro. Come? Attraverso dei disegni che la bambina, avete sentito, fa, sembrerebbero dei pasticci inopportuni sui fogli di lavoro del papà, in realtà quei disegni interpretati cominciano a far pensare che la bambina abbia qualcosa di magico, magari non tanto lei quanto una copertina viola, possiamo ripescare in questo senso il concetto di coperta di Linus, la copertina viola che la piccola Olivia, 7 anni, con cui dorme, diciamo appunto, inseparabilmente, non ne fa mai a meno. E a questo punto il padre comincia a pensare che tutto sommato questa coperta abbia dei poteri magici. Ascoltiamo un altro passaggio del trailer. Fammi capire bene, le principesse ti danno delle notizie sulle società? Mm-hmm. Sai che ti dico, gli chiedo di un altro paio di società. Ecco qui, devi cantargli una canzone che le piace. Fammi passare! Più alta! Non mi viene un aneurisma? Fammi passare! Non le piace per niente. Ho paura di no. Tutta la comunità parla di lei. Scopri dove prende le informazioni. Veramente sta sempre con la figlia. Dobbiamo ballare. Dobbiamo anche ballare? Ballano e ridono. Ciao Evan. Ciao, come va la vita? Bella, eh? Con una coperta. Dì a Olivia Danielson che il suo papà ha bisogno della copertina. Ti do $20. No, ne scucci 50, fratello. Ho un buono caffè? Io non bevo caffè. Ti piacciono gli scones? Gli scones? Chi sono? La regina d'Inghilterra? Attacchiamolo, scemo! E tocca! Evan Danielson quindi si trova catapultato in un mondo di bambini, comincia a pensare come un bambino, comincia a capire che questo è il codice di linguaggio che serve con i suoi nuovi partner, che sono appunto molto piccoli, e comincia a pensare anche che di questa coperta non può davvero più fare a meno. A questo punto si va verso il finale di questo film, verso le riflessioni che portano appunto a tirare le somme del concetto e della morale di questa pellicola. Sentiamo. Sei davvero convinto che quella coperta c'entri qualcosa con quello che è successo? Tu hai due lavori e uno dei due è fare il padre. E lei deve sapere che tu tieni a questo lavoro quanto all'altro. Provate a immaginare che la magia che avete cercato sia proprio davanti ai vostri occhi. Che cosa vuoi fare adesso? Tu che vuoi fare? Casa! Oh, no! No! Vieni! Sto cominciando a imparare! Eddie Murphy. Chi vuole pancakes? Abbiamo qualche condimento? Ketchup, mostarda, salsa piccante. Oh, signore. Oh, signore. Proteggi la gola del mio papà. Lui non ha mai fatto del male a nessuno. Lui non ha mai fatto del male a nessuno. Immagina che... Mi fai il conto, per favore? $400,000, mettici fuori di testa! Puoi spennarmi come un pollo, torna qui! E allora, avete sentito una famiglia ritrovata, un legame ritrovato fra padre e figlia, Eddie Murphy che ha attraversato anche tanti problemi personali negli ultimi anni, proprio legati anche alla sua paternità, eccetera, torna in una commedia per famiglia, un po' diventato il suo genere negli ultimi anni, appunto, Piacere Dave, L'asilo dei papà, La famiglia del professore Matto. La differenza con questo, in questo Immagina che, è il fatto che nei panni del bambino si cala lo stesso Eddie Murphy, forse rinunciando un po' del suo potenziale comico. La sua risata che avete sentito, storica, viene forse un po' trattenuta fra i denti, però riuscendo sicuramente a mettersi maggiormente in contatto con tutti i bambini del film che gli stanno intorno. Il film in fondo fa luce ancora su un territorio interessante che il cinema americano negli ultimi tempi ha abbastanza frequentato, cioè quello proprio del dover ritornare bambini per cercare forse un fondo di verità dentro se stessi. Pensate a Racconti incantati con Adam Sandler, per esempio, della scorsa stagione. Sandler era nei panni di uno zio che si improvvisava babysitter, uno zio un po' goffo e che dalle storielle che raccontava la sera, insomma, traeva interessanti spunti, perché queste storie diventavano realtà il giorno dopo. E poi ancora il disneyano Come d'Incanto di un paio d'anni fa. Insomma, è un po' di tempo che nella commedia per famiglie il cinema americano riflette proprio su questa figura del rapporto coi bambini, un rapporto che sembra essere smarrito e che va invece ritrovato, sembra essere un po' la morale di questi film. Poi la commedia non è un granché sotto il profilo della scrittura, la regia di Kerry Kirkpatrick, che è stato fino adesso soprattutto uno sceneggiatore d'animazione, non è particolarmente illuminante. Il film, diciamo così, non è all'altezza dei suoi attori, perché è molto brava anche la bambina, la piccola Olivia. Però sicuramente è un film che in questo periodo dell'anno può essere una soluzione, una proposta proprio per le famiglie. Noi siamo arrivati alla fine della prima parte della nostra trasmissione, abbiamo raccontato Immagina che, fra poco invece racconteremo 12 round, film d'azione con John Cena. Ascolteremo anche la voce dell'ex wrestler diventato attore e daremo un'occhiata anche a quello che è successo nelle classifiche degli incassi del weekend. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea per continuare a parlare di cinema in questa prima puntata agostana. Abbiamo raccontato una commedia come Immagina che con Eddie Murphy. Adesso, fra poco, vi racconteremo invece 12 Round, film d'azione di Rennie Harlin, che è un regista esperto di questo genere. Prima però diamo un'occhiata a quello che è la classifica degli incassi nello scorso fine settimana, nella quale questi due film, queste uniche due novità di questo weekend, potrebbero infilarsi. Non è che ci siano incassi clamorosi in questo periodo, proprio in generale, tranne Harry Potter, è davvero un po' il momento peggiore, manca un po' di prodotto, eppure qualcosa da recuperare c'è. Proviamo a vederlo insieme, appunto, risalendo la classifica dal decimo posto, dove troviamo, pensate, ancora Un'estate ai Caraibi con incassi ormai veramente risicati. Al nono posto Uomini che odiano le donne, all'ottavo Baby Mama, che è veramente partito molto male, insomma, un film anche abbastanza recente. Al settimo Soul Man, al sesto uno dei microsuccessi di questa stagione, Coraline e la Porta Magica, un film d'animazione di Henry Selick, che ha già incassato un totale di 3.158.000 euro. Però pensate, in questo weekend solo 58.000, ecco, questo vi dà la misura di incassi veramente molto molto limitati. Ancora al quinto posto Outlander, che ha tutto sommato resistito in maniera dignitosa. Al quarto, La rivolta delle ex, il primo film a superare nel weekend scorso i 100.000 euro di incasso, che sono una soglia con cui di solito non si entra neanche nei primi 20. Al terzo posto resiste un film che io consiglio a tutti quelli che vogliono farsi una grassa risata, perché qui è veramente un ridere un po' alla Blues Brothers, per intendersi, ovvero Una notte da leoni di Todd Phillips, di gran lunga la commedia comica più divertente dell'ultima stagione. Terzo posto anche in virtù di un passaparola che sta portando ancora molta gente al cinema a vederlo. Una notte da leone ha incassato quasi 3 milioni di euro fino a questo momento. Secondo posto per Transformers e primo posto a anni luce di distanza dagli altri per l'incasso per Harry Potter, il principe mezzo sangue, 1,5 milioni lo scorso weekend, 14 milioni di incasso dall'inizio dalla sua uscita appunto. Una proiezione che lo dovrebbe portare intorno ai 20 milioni, anche se forse ci si aspettava qualcosa di più globalmente, ma questo è assolutamente il frutto di questa stagione in cui il film è uscito. Un cenno solo sulla classifica americana, dove invece Harry Potter è passato al secondo posto ed è stato battuto da G-Force, che è un film di animazione in 3D che appunto ha incassato nel suo primo weekend 32 milioni di dollari. E questo quindi per quel che concerne la classifica, vedremo se e soprattutto a quale livello i due film di oggi riusciranno a incastrarsi appunto in questa graduatoria. Parliamo del secondo film, quindi del secondo candidato a entrare in questa classifica, 12 Round, un film di Renny Harlin con John Cena protagonista. Ascoltiamo subito un passaggio del trailer. Sta attento, Kay. Obiettivo diretto a nord-est. A tutte le squadre, lo abbiamo identificato. Fermi! Mani in alto, subito! Corri! Voglio conoscere il tuo nome! Io mi ricorderò di te! Ebbene, avete sentito un po' quello che può essere definito il prologo di questo film. Siamo a New Orleans, il detective Danny Fisher si trova del tutto casualmente ad entrare in contatto con un pluriricercato, l'irlandese Miles Jackson, che sta tentando la fuga con una valigetta piena di diamanti in compagnia della bellissima fidanzata Erica. Ebbene, un incontro fortuito durante un pattugliamento. Quello che succede è che il detective Fisher, che è appunto John Cena, inseguendo i malviventi, dà origine a un incidente. Incidente nel quale, del tutto casualmente ovviamente, muore appunto Erica, la fidanzata dell'irlandese Miles Jackson. Allora questo è il momento in cui il pluriricercato minaccia il nostro eroe, diciamo così, John Cena appunto, dicendogli che gliela farà pagare, che si ricorderà di lui e che il suo nome sicuramente non sparirà presto dalla sua mente. Sentiamo. Parlo con l'agente Fisher del Dipartimento di Polizia di New Orleans. Sì. È il nostro primo anniversario. Un anno fa mi hai privato di quello che non potrà mai, mai essere sostituito. È stato un incidente. Ecco perché io ti priverò della stessa cosa. Molly! Esci di casa! Non è morta. Stiamo giocando. L'unico modo per riaverla viva è fare tutto quello che ti dico di fare quando te lo dirò io. Io ti darò la caccia e ti ucciderò. Sai una cosa? Non vedo l'ora, Danny. Un anno dopo, quindi, avete sentito, il malvivente Jackson si ricorda della sua promessa, rapisce la compagna di Danny Fisher, Molly, e organizza una sorta di corsa ostacoli, di gara ostacoli, sono 12 come le fatiche di Ercole, per, diciamo così, farsi provare a giocare un po' col gatto col topo e provare a vedere di evitarne la morte del suo ostaggio. E allora comincia proprio una sorta di movimento continuo da parte del detective che è portato ora in un capannone abbandonato, ora a, diciamo così, disinnescare un ordigno che sta per esplodere, ed è tutta una sorta di caccia al tesoro al contrario, nella quale il tesoro da recuperare è appunto la amata compagna Molly. Noi andiamo a sentire a questo punto il terzo e ultimo tratto del trailer che tira un po' le fila della storia. Sentiamo. Ho una sorpresina per te. Al termine di questo messaggio, voi avrete 60 secondi prima che l'ascensore precipiti a terra. Solo uno di voi riuscirà a sopravvivere. Stai qui, ti tiro fuori io, coraggio! Oh mio Dio! Ricordati la bomba, Danny. Ricordati la bomba, Danny. Questo dice il pluriricercato Jackson. Ovviamente tralasciamo i particolari delle scene finali. Cosa possiamo dire di questo film? Intanto, appunto, è un film che si situa in una genere molto popolato e anche molto frequentato, appunto un action movie puro dove la trama è veramente esile, è un pretesto, c'è questo gioco delle 12 tappe che il detective deve risolvere in un certo senso con tutte le sue forze per riuscire a salvare l'amata. È un film che vede un protagonista che ha visto sicuramente tutti i film dei vari Van Damme, Stallone, Seagal, ovviamente Bruce Willis, visto anche la presenza in regia di Rennie Harlin, ma che fortunatamente recita se stesso in un certo senso, e questo è un bene. Appunto, John Cena evita di scadere nello scimmiottamento. Non è ovviamente un attore particolarmente dotato, ma insomma forse in questo film servono più i muscoli che le raffinatezze. È un film che, diciamo così, se non lo si vede con pretese clamorose, offre un'ora e 50 minuti di ottimo intrattenimento, sicuramente di grande velocità, un montaggio rapidissimo, anche troppo forse, che frastuona in un certo senso nella testa dello spettatore, e proprio per gli amanti del genere, forse anche molto per gli amanti del wrestling, visto e considerato che appunto John Cena porta al cinema anche tutto un pubblico di questo tipo. Noi abbiamo anche un contributo che è proprio una dichiarazione che John Cena ha rilasciato durante l'intervista, appunto, in presentazione americana del suo film, proprio sui motivi che lo hanno spinto ad accettare questo ruolo. Sentiamo. I liked the story and I thought it was very reality based. Mi piaceva la storia e ho pensato che avesse un'ampia base realistica. Al giorno d'oggi molti film d'azione tentano di alzare l'asticella di ciò che chiedono agli stunts, o in altre parole di aggirare le leggi del realismo. Abbiamo cercato di mettere insieme una buona storia che ognuno può seguire e loro possono guardarla e dire: sai che c'è? È abbastanza verosimile. Voglio dire, alcuni scenari li senti più vicini, per questo il film è pieno di suspense. È questo il motivo per cui la gente rimane attaccata alla sedia, perché può riconoscersi nel film e quasi fare le stesse cose che succedono sullo schermo. They can see themselves almost making this stuff happen. E abbiamo parlato di John Cena e del suo 12 round nei cinema italiani da questo fine settimana. Esaurita la parentesi, come dicevamo, abbastanza scarna di novità, ma c'è ancora tanto cinema di cui parlare, e soprattutto cominciamo a giocare insieme con il nostro DVD game. Ogni settimana, ve lo ricordo, tre tracce misteriose di un film che dovete indovinare. Scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it per dirci di quale film si tratta. Il più veloce e il più bravo del sabato e della domenica riceveranno a casa il DVD proprio di quel film. Tra l'altro, questo è l'ultimo DVD game di questa nostra stagione, di questa estate. Riprenderemo ovviamente dopo il Festival di Venezia, perché adesso chiaramente anche le uscite in DVD cominciano a scemare, ma avremo invece sempre Claudio Pofi tutta l'estate che ci racconterà tutte le novità. Cominciamo allora ad ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Una sera, quasi per scherzo, mi venne l'idea di dirgli: ehi Elmo, chi è che hai ucciso? E lui mi dice: a quei tempi mi ero trovato un lavoro, facevo le pulizie al country club, così potevo dare un'occhiata ai ricchi figli di puttana che ci venivano. Insomma, alla fine scelgo un tizio e una notte vado da lui per ripulirgli la casa, ma lui si sveglia e questo mi rompe il cazzo, così lo uccido. E così lo uccide, avete sentito. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, è un grande film che appartiene alla storia del cinema, almeno degli ultimi 30 anni, diciamo così. E allora, noi andiamo a questo punto avanti con la nostra trasmissione. Vi ricordo che più tardi avrete altre due possibilità per giocare con il nostro game. Parliamo del Festival di Venezia, lo facciamo dividendo in due l'analisi, nella prima parte raccontando un po' appunto queste proteste che ci sono state a margine della presentazione, e poi invece concentrandoci maggiormente sul cartellone con Piera De Tassis, che ci dà una mano un po' a scoprire cosa aspettarsi da questo festival. Cominciamo, dicevo, con le proteste. Taglia il FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, insomma i finanziamenti pubblici che ogni anno lo Stato mette a disposizione del mondo dello spettacolo. Tagli drastici quest'anno, promesse di reintegro poi non mantenute, A questo punto è scattata davvero la serrata, ma da parte di tutte le anime del mondo dello spettacolo, dal circo al teatro al cinema, ovviamente cinema sia come esercenti delle sale cinematografiche, sia anche come attori e registi italiani che si sono fatti sentire. C'è stata una simpatica e pacifica, ovviamente, invasione anche della sala nella quale si doveva tenere la conferenza stampa. Il primo a parlare è stato Sergio Castellitto, sentiamo le sue prime parole. Per questo gli autori, gli artisti e i lavoratori dello spettacolo e del cinema italiano sono qui a chiedere la solidarietà dei giornalisti, dei colleghi e dell'opinione pubblica di tutto il mondo. Queste le prime parole di Sergio Castellitto. Fuori intanto c'era davvero tutto il mondo del nostro cinema, c'era Laura Morante che volantinava, insomma si vedevano anche scene così di grande partecipazione per quello che è un settore che sta soffrendo moltissimo. Il rischio è anche che l'anno prossimo scompaiano numerose sale cinematografiche schiacciate fra il peso di una produzione e di una distribuzione sempre più destinate a un prodotto multiplex, diciamo così, e invece un cinema di città, di piccole città magari, che fa fatica e arranca un pochino. Condensa tutto in questa analisi Carlo Verdone. Questo è un paese che ha già perso molto della sua memoria storica. Quindi, se non vogliamo in qualche modo sparire e buttare tutto sull'intrattenimento, bisogna in qualche modo fare uno sforzo in più per la cultura. Qua non si tratta di aiutare il cinema, qua si tratta di aiutare seriamente, aiutare, perché sono ridotti sul lastrico il teatro di prosa, il balletto, tutto ciò che è sperimentale, perché sennò veramente non vedremo più le nuove generazioni che prendono il nostro posto e giustamente devono prendere il nostro posto nei vari settori. Qua non c'è un cinema piagnone, qua c'è un cinema che vi dice: attenzione, quest'anno perderemo forse 200 cinematografi. L'analisi di Carlo Verdone. Allora, noi a questo punto, dette le ragioni della protesta degli autori e degli attori cinematografici italiani, diamo la linea alla regia. Fra poco torniamo e parliamo invece di quello che Venezia offrirà nel suo cartellone a partire dal 2 settembre. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea. Come dicevamo prima di passare la linea alla regia, parliamo del Festival di Venezia, del cartellone presentato in settimana. È un festival molto interessante, anche abbastanza innovativo, perché ci sono un paio di linee guida, almeno stando ai titoli che sono stati presentati, che si discostano un po' dalle recenti edizioni, non solo del Festival di Venezia, in generale dall'andamento del cinema. Intanto è un po' il festival dell'horror, perché davvero sia in concorso che fuori concorso sono tante le pellicole di genere che sconfinano proprio nell'horror aperto presenti, e anche i maestri di questo genere che saranno a Venezia. E poi è un po' il cinema anche del il festival del cinema europeo che è molto presente con tanti film e quindi anche in questo senso forse le cose più interessanti sono venute dal vecchio continente. Ci sono alcuni titoli che vogliamo citare, intanto i quattro italiani: Bahia di Giuseppe Tornatore, La doppia ora di Giuseppe Capotondi con Filippo Timi, e questa è una novità che forse non ci si aspettava, non era fra quelli già citati e già papabili, Lo spazio bianco di Francesca Comencini e, per chiudere, Il grande sogno di Michele Placido. Ma poi ancora tre film dalla Francia, come Persecution di Patrice Chéreau, come Wild Material di Claire Denis e come Mr. Nobody di Jacques Van Dormael, lo ricorderete, l'autore di Totò l'eroe all'inizio degli anni 90, un regista che ci fa molto piacere rivedere. Poi la presenza di Werner Herzog, per esempio, e ancora dalla Germania Fatih Akin con Soul Kitchen. Non manca ovviamente l'America, ci siamo dimenticati per la Francia Jacques Rivette, che non è un nome da poco. Dicevo l'America con Todd Solondz, con Michael Moore, col suo film sulla crisi finanziaria internazionale, ma soprattutto il ritorno di Giorgio Romero con Survival of the Dead, maestro dell'horror internazionale in concorso a Venezia. E poi ancora nei tabelloni collaterali, intanto fuori concorso, The Hole di Joe Dante, un altro grande maestro del genere, e poi tante altre pellicole come The Informant di Steven Soderbergh. Questi sono tutti film che stanno appunto fuori concorso, come Rec 2 di Jaume Balagueró. Rec è stato uno degli horror più azzeccati, un po' l'emblema del cinema horror spagnolo degli ultimi anni. E insomma, un Festival di Venezia con tanti spunti di interesse. Noi ne parliamo con Piera De Tassis, direttore di CIAC, cominciando proprio con l'analisi dei film italiani. Sentiamo. La vera sorpresa dopo Tornatore, Placido fatto che erano dati, insomma, ormai per scontati, e la Comencini, che si era capito che c'era. Diciamo che la vera sorpresa è l'opera prima di Capotondi, che è la doppia ora con Filippo Timi e Xenia Rapoport, che segna, devo dire, insomma, una divergenza nel solito film da concorso, perché è un film di genere quasi, quindi che sfiora l'orrore in una mostra cinematografica che all'orrore guarda molto e all'horror, quindi insomma c'è un senso in tutto questo, ecco. Tra l'altro è un film prodotto da Francesca Cima e da Giuliano, quindi dalla coppia che ha prodotto Dalla ragazza del lago al divo, la nuova coppia divistica, diciamo, dei produttori italiani. E quindi insomma aspettiamoci buone cose da questo film. Dicevamo tanto cinema europeo, adesso il conteggio preciso non l'ho fatto, ma una decina dei film in concorso vengono dal vecchio continente. Allora, Piera, è la lettura del buon momento, del buon andamento del cinema europeo? Io credo che sia, per esperienza dico che è una lettura anche un po' obbligata, nel senso che quest'anno sicuramente è più difficile il reperimento, il setaccio, eccetera, sul cinema extraeuropeo, sul cinema americano, sul cinema delle major. La crisi ha segnato. È molto costoso spostarsi, è molto costoso investire sulla promozione, andare in giro per festival, per mondi, eccetera, quindi in fondo la cara vecchia Europa ci torna anche buona e comoda. Devo dire però che la selezione, insomma, ha dei bei nomi, perché da Jacques Rivette a Chéreau, da Claire Denis, per stare sui francesi, a Werner Herzog, insomma, è ben rappresentata, ecco, l'Europa, molto ben rappresentata. E infine l'horror, l'altro tema che dicevamo, l'altro filone che può essere così, almeno sulla carta, pregnante. Tanti maestri del passato, ma anche nuovi esponenti di questa scuola, e un po' di horror anche appunto in quel quarto film italiano in concorso, La doppia ora di Giuseppe Capotondi. Piera? C'è evidentemente un taglio che poi si conferma nel fuori concorso, mi pare, con Gio Dante, con alcune scelte, insomma, no? Che sono molto tagliate su quello che avremmo definito il new horror negli anni 70, insomma. Ci vedo anche un po' la mano non solo di Muller, ma della Vallan in fase di selezione, perché poi c'è Jaime Balaghero anche, insomma, c'è la solita voglia comunque di Venezia, della Venezia di Muller, di andare a scavare ai confini tra l'autore e il genere, senza paura di rimanere nell'accademia, appunto, dell'autore pure semplice. Del resto lo dimostra questo anche il John Lasseter come premio alla carriera. Mostra del cinema di Venezia, quindi, dal 2 al 12 settembre, grazie a Piera De Tassis. Siamo al secondo appuntamento con il DVD Game di oggi. Ascoltiamo la seconda traccia del film misterioso. Quell'uomo è stato qui dentro 50 anni, Haywood. 50 anni! Questo è tutto il suo mondo. Qui dentro lui è un uomo importante. È uno dei più istruiti. Fuori non è niente. È soltanto un vecchio stanco, inutile e pieno di acciacchi. Forse non gli darebbero neanche la tessera della biblioteca. Hai afferrato il concetto? La rosa purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi l'ultima possibilità. Noi andiamo avanti da festival a festival, abbiamo analizzato il cartellone di Venezia, presentiamo invece il Festival di Locarno che sta per partire. Dal 5 agosto sulle sponde del Lago Maggiore, nella splendida cittadina svizzera, il meglio del cinema indipendente di tutto il mondo, tante scoperte, tante novità, e poi lo spettacolo dei film in Piazza Grande. Ne parliamo con Frédéric Mer, che è il direttore del Festival di Locarno. Ciao Frédéric e benvenuto alla Rosa Purpurea. Ciao, ciao. Allora, dicevamo, siete i primi, come sempre, il Festival di Locarno, il festival che in un certo senso apre la stagione cinematografica. Ci si dibatte, ne abbiamo parlato prima con Piera De Tassis, anche in problemi e momenti di grande crisi, di grandi problemi di finanziamenti. Ti chiedo subito, è così anche in Svizzera? Ma sì, è anche così in Svizzera, perché la crisi si sente, ma sinceramente abbiamo fatto appunto un punteggio per vedere se c'era meno persone, meno giornalisti, meno professionisti che venivano, e alla fine sembra di no. Vengono tutti, magari cambiano albergo, nel senso passano dal 5 al 4 stelle o magari anche dal 5 al 3 stelle, però vengono, e quindi questo è un buon segnale per noi. Non dipende tanto dalla Svizzera, ma dipende veramente dal fatto che Locarno piace. Dall'altro canto mi rendo conto che magari siamo fortunati, ma certi dei nostri sponsor importanti, sia pubblici che privati, hanno già riconfermato il loro sostegno per i 2 o 3 anni successivi, e quindi direi che la salute di Locarno sembra piuttosto buona. Parliamo di cinema, Frederica. Abbiamo detto del film che apre in Piazza Grande, con 13 titoli quest'anno. E allora raccontaci un po' quali sono le 2 o 3 chicche di cui sei orgoglioso per questo pubblico di quasi 10.000 persone che assisterà ai film all'aperto in Piazza Grande. Ma diciamo c'è come sempre di tutto e di più che può piacere a tutte le tipologie di pubblico. Direi che da un lato abbiamo dei film, diciamo, d'autore a grande spettacolo, come per esempio il film dei francesi fratelli Larieux, che sono piuttosto degli abituati di Cannes e che per la prima volta verranno sulla Piazza Grande con una specie di film catastrofe che racconta appunto gli ultimi giorni del mondo, è proprio il titolo del film, molto divertente su come uno magari vive questi ultimi giorni del mondo prima che il mondo si autodistrugga. Quasi un'anticipazione. Sì, scusa? Quasi un'anticipazione, Frederica, di 2012. In questo senso sì, infatti. E poi appunto, rimanendo nelle cose un po' futuristiche, un po' catastrofiche, parliamo di manga, perché ci sarà la famosa, faremo una notte manga dove passeremo durante tutta la notte dei grandi film della storia del cinema d'animazione giapponese, andando da Mobile Suit Gundam, il primo dei grandi Gundam, con un omaggio a Tomino, il suo autore, chiudendo con Akira, il mitico film verso le due di mattina, o ancora il film della regista che aveva fatto Il cammello che piange, questo film a grande successo, regista di origine mongola, che ha fatto un nuovo film molto bello, molto poetico e appassionante sulla Mongolia, ma anche sulla musica di laggiù, che chiuderà il festival un po' a sorpresa, un po' come lo abbiamo fatto qualche anno fa con l'orchestra di Piazza Vittorio. Frederica, l'Italia non ce n'è in concorso, anche se Pippo Del Bono con La paura è fuori concorso. Come mai nessun titolo italiano a concorrere per il Pardo d'Oro? Beh, diciamo che da un lato avete parlato di Venezia, ce ne sono tanti a Venezia e tanti che magari avevamo già visto e che hanno scelto di andare a Venezia, a ragione a torto, io non lo dico, scelgono le produzioni. Detto ciò, credo che c'è una specie di tradizione a Locarno per noi di presentare un cinema un po' diverso, un po', diciamo, sotterraneo, molto indipendente, il cinema, diciamo, italiano più radicale, o quello almeno dei giovani autori che magari saranno altrove nel futuro. E credo che, ecco, certi film italiani invitati in concorso c'erano, ma hanno preferito andare sotto altri orizzonti, per dirla così in modo poetico, e noi invece presentiamo registi nei quali crediamo assolutamente, come Pasquale Marazzo, come Corso Salani, come Stefano Savona, come ovviamente Pippo Del Bono, che non è in concorso perché diciamo gli rendiamo un omaggio a tutta la sua opera cinematografica, e sarebbe stato ingiusto metterlo in concorso con la promozione che faremo sulla sua opera. E peraltro c'è un po' d'Italia anche nei premi, con Tony Servillo che riceverà l'Excellence Award, e poi Alba Rohrwacher per esempio in giuria. Ti faccio un'ultima domanda però, perché forse uno dei momenti cult di quest'anno sarà il Pardo d'Onore consegnato a William Friedkin, insomma a un regista che ha davvero disegnato alcuni dei film che sono rimasti più radicati nella storia del cinema e nell'immaginario collettivo. Sì, infatti William Friedkin, di cui passeremo una copia restaurata e nuovissima di To Die and Live in LA in prima serata, prima del film giapponese, di nuovo un'animazione giapponese, Red Line, che è un film che appunto guarda verso gli Stati Uniti, quindi è una specie di viaggio tra Giappone e Stati Uniti. No, Friedkin che viene anche perché lui rappresenta benissimo questo cinema, diciamo, di studios americani, però allo stesso tempo un cinema d'autore. Lui ha reinventato reinventato certi generi classici del cinema hollywoodiano e ci sembrava giusto premiarlo, come era stato premiato tanti anni fa da Marco Müller al suo tempo un regista come Joe Dante. Ricordiamo quindi William Friedkin con il suo Braccio violento della legge, con L'esorcista, insomma con queste pellicole straordinarie, presente a Locarno, ed è un modo per incontrare un'occasione più unica che rara. Grazie a Frederick Mehr, direttore del Festival di Locarno, e appuntamento lì sul lago, in questa splendida cittadina, dal 5 di agosto per una decina di giorni, grande cinema nella Svizzera italiana. Ciao Frederick. Ciao, grazie. Tra poco torneremo insieme con le anticipazioni del cinema americano e tutte le novità in DVD. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, che si apre con le novità nel cinema americano, che invece è pieno di nuovi film in questo periodo, contrariamente a quello che succede invece da noi. Allora, in questa calda estate proviamo a farvi venire i brividi freddi con il thriller di cui vi parleremo insieme alla nostra Michela Bilzario, che salutiamo al nostro consueto appuntamento, appunto Trailer USA, vetrina sulle anticipazioni cinematografiche oltreoceano. Ciao Michela. Ciao Franco. Allora, oggi parliamo di The Box di Richard Kelly, già regista del cult Donnie Darko, di cui tra l'altro sta per uscire il sequel. Film di cui si parla tantissimo in rete, basato sul racconto breve, appena 6 pagine, di Richard Mason, ambientato negli anni 70. Il film è in uscita il 30 ottobre negli Stati Uniti, è una vera e propria anticipazione, ma è stato reso pubblico il trailer, finché vede nel cast un'insolita Cameron Diaz, lontana dall'allegria di tutti i pazzi per Mary, per intenderci. Anzi, Michela, come potrai confermarci anche tu, una Cameron Diaz quasi immorale. Perché? Cameron Diaz è davvero un personaggio cupo in The Box ed è alle prese con un dilemma di non facile soluzione, diciamo così. Lei è sposa e mamma felice di un bambino in Virginia, e un giorno alla porta così bussa un uomo misterioso e le consegna un pacco, una scatola, e le dice due cose: se deciderete, ovviamente lei e il marito, di premere il bottone rosso all'interno di questa scatola, accadranno due cose, una bellissima e una brutta. Cioè, da una parte guadagnerete subito $1 milione, dall'altra però morirà una persona, starà a voi scegliere cosa fare. Ecco, allora sentiamo in questo passo del trailer questo misterioso signore parlare. Mrs. Lewis, I assume you received the box. I have an offer to make. If you push the button, two things will happen. First, someone somewhere in the world whom you don't know will die. Norma e Arthur, questi i nomi dei protagonisti, hanno 24 ore per decidere cosa fare, quindi insomma un dilemma morale pesantissimo. In gioco c'è la loro umanità, il loro senso morale, dall'altro ovviamente il denaro con il quale si può comprare tutto e sistemarsi la vita. Mentre Arthur, appunto il marito, deciderà subito da che parte stare, trovando la cosa immorale, Norma, ovvero Cameron Diaz, sembra al contrario pensarla diversamente. Le cose, ovviamente trattandosi di un thriller e senza svelarvi il finale, precipitano. Qui in questo passo del trailer sentiamo la seconda parte delle conseguenze fatali del loro gesto. Second, you will receive a payment of $1 million. You have 24 hours. Did you get a chance to run that license plate number? Hello, Norma. Mahoki isn't playing detective. I have quite a few employees. Un thriller in piena regola, quindi molto semplice nel suo plot, però molto coinvolgente. Chissà cosa faremmo noi se schiacceremo quel bottone o meno. Boh. In attesa della data italiana, vi ricordiamo che The Box appunto esce negli Stati Uniti il prossimo 30 ottobre. Ciao Michela. Ciao Franco e un saluto ai nostri ascoltatori, come sempre. E siamo alla terza e ultima traccia misteriosa del DVD Game di oggi. Sentiamo. Gli scacchi, quello sì che è un gioco. Perché? È un gioco di logica, di strategia. No, è roba da cervelloni. Lo detesto. Magari un giorno te lo insegno, se vuoi. Ma certo. Mi piacerebbe tanto avere una scacchiera. Stai parlando con l'uomo giusto, ricordi, mi puoi chiedere qualunque cosa. Sì, potrei chiederti la scacchiera, ma i pezzi voglio scolpirmeli da solo. Vorrei fare i bianchi in alabastro e i neri in saponite. Tu che ne pensi? Che ti ci vorranno degli anni. Quelli non mancano, sono le pietre che mancano. Qui in cortile ce ne sono, ma non vanno bene. Sono piccole per quello che voglio fare. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta. A questo punto le nostre tessere sono state messe tutte sul tavolo, quindi si tratta di azzeccare questo film, che è un classico della storia del cinema degli ultimi 30 anni, diciamo così, però insomma non è proprio recente, quindi forse qualche sforzo di memoria in più del solito serve. Invece svediamo il dilemma, il quesito della scorsa puntata, facendovi riascoltare una delle tracce che avevamo seminato. Io voglio un aereo che si schianta nel deserto, non un avvocato in fregola di trasgressioni. Giusto. E tu mi dai una boiata che è anche peggio. Che ti succede, David? Dai, è quello russo la boiata. Non ha storia, non ha dramma, non ha un solo ingrediente che tenga il pubblico davanti alla TV per un'ora. Se la gente potesse si guarderebbe pure la roulette russa. Scusa? Cosa? Che cosa? Quello che hai detto un attimo fa. Si trattava di Live, uno dei film che sono usciti nel corso della stagione cinematografica che si è appena conclusa, con Eva Mendes a protagonista. Eva Mendes che ha creduto fortemente in questo progetto, tanto da esserne anche la produttrice, che racconta appunto la storia di una dirigente di una TV che alle prese con l'idea di un nuovo reality si tira fuori dal cilindro, insomma, l'idea della roulette russa. Non è la prima volta che il cinema riflette su questo tema della morte in diretta. È un film che senza grandi pretese comunque ha un suo ritmo. Noi ne chiediamo conferma al nostro Claudio Poffi, che è in collegamento. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, in effetti il film è molto forte, la nostra speranza naturalmente è quella che non si arrivi mai a vedere veramente reality così estremi. Il racconto che arriva su Blu-ray in alta definizione è notevolissimo, la qualità c'è tutta, sia per quanto riguarda la parte video che audio. Per l'audio sono due tracce DTS ad alta risoluzione, entrambe splendide. Un piccolo appunto per la parte video: in alta definizione all'interno del film ci sono delle brevissime sequenze a definizione televisiva standard, che naturalmente non possono offrire la stessa qualità, ma questo è naturalmente voluto così dal regista e dalla produzione. Sono presenti degli extra, interviste naturalmente alla produzione e agli attori, e i trailer del film oltre allo spot televisivo. E allora, noi ricordiamo che abbiamo giocato appunto con questo film la settimana scorsa, e che i più veloci e i più bravi il sabato e la domenica ad indovinare il titolo del film sono stati Francesco Campese di Calci, provincia di Pisa, e Laura Cipriani di Padova. Proprio loro riceveranno a casa il Blu-ray di Live. Andiamo avanti con un notevole salto indietro: cinema italiano all'inizio degli anni Ottanta, alla base un romanzo di un grande autore assolutamente da rivalutare come Piero Chiara. Il film si intitola Il cappotto di Astrakhan. Sentiamo una clip. E lei di cosa si occupa? Beh, di niente. Come niente? Niente di preciso. I miei interessi spaziano, come dire. Non voglio fare delle scelte. Preferisco guardarmi attorno. Tutto qui. Ho avuto una piccola eredità e ne approfitto per viaggiare. Poi amo scrivere. Piccole cose. Si intende così, senza pretese. Impressioni sul genere umano, regole di comportamento. Capisce? Allora hai viaggiato molto. Veramente all'estero mica tanto. Anzi, questa è la prima volta. La verità è che io al mio paese ci sto bene. È del 1980 questa commedia meravigliosa, diretta da Marco Vicario, che ci permette di seguire le avventure di Piero, meravigliosamente interpretato da Johnny Dorelli, che vive sul lago, ha una sua vita tutto sommato molto comoda, vince a biliardo una scommessa e decide di spendere i soldi in un viaggio avventuroso a Parigi. Però purtroppo appena arrivato inizieranno una serie di disavventure, verrà addirittura arrestato, il passaporto ritirato, si troverà un po' insomma con notevoli problemi, incontrerà due donne, una delle quali si innamorerà. Ricordo che questo film non è mai stato disponibile precedentemente in un video in digitale, quindi questa è la prima volta per cogliere l'occasione di riscoprire questo film meraviglioso e con una qualità molto buona. Sfortunatamente non sono molti gli extra, abbiamo solamente una galleria fotografica, una carrellata delle locandine e le recensioni cinematografiche dell'epoca. E questo per quanto concerne Il cappotto di Astrakhan, l'ultima nostra recensione trasmissione questa settimana riguarda un film d'azione, anche questo fa parte della stagione cinematografica appena conclusa. Il protagonista è Shia LaBeouf, è uno degli attori davvero emergenti ormai, anzi forse emersi direi, di Hollywood, protagonista nelle sale anche in questi giorni con Transformer, ma anche al fianco di Harrison Ford come suo figlio nell'ultimo capitolo della saga di Indiana Jones. Il film è Eagle Eye, ascoltiamo la clip. Pronto? Pronto? C'è un McDonald's dall'altra parte della strada. Guarda i monitor. Ma che cosa significa? Rischieresti la tua vita per tuo figlio? Rachel Holloman, sei stata attivata. Non è divertente. È vitale che tu obbedisca. Chi è lei? Il suo treno deraglierà se non farai ciò che ti diremo. Che vuol dire? Non devi tornare nel bar. Che cosa? C'è una Porsche Cayenne nera parcheggiata all'angolo nord-est dell'isolato. Le chiavi sono inserite. Comincia a camminare. Da Paramount Dreamworks abbiamo disponibile il film sia in DVD che in alta definizione. Per seguire le avventure di questi due personaggi, due vite costrette a intrecciarsi da una telefonata che le obbliga a eseguire una serie di ordini per evitare il peggio, due persone comuni che dovranno al tempo stesso evitare di cadere nelle mani di agenti del governo americano che sfrutta un progetto sperimentale chiamato appunto Eagle Eye per intracciarli. Film action sicuramente ad alta velocità che poi diventa thriller, sicuramente non bisogna porsi domande, almeno nel corso della prima parte del film ci sono sicuramente rimandi a opere del passato come War Games, Nemico Pubblico e Minority Report. La qualità del DVD è assolutamente notevole, ma ancora superiore quella del Blu-ray in alta definizione, che permette veramente una visione assolutamente cinematografica. Una piccola nota ad emerito per quanto riguarda anche questo Blu-ray di Paramount, che purtroppo nella traccia in italiano ritroviamo solo ed esclusivamente la codifica in Dolby Digital, praticamente quella identica al DVD, in alta risoluzione solo i dialoghi in inglese. Notevolissimi naturalmente gli extra, scene eliminate con un finale alternativo, un dietro le quinte, approfondimenti vari sulla lavorazione, errori sul set e addirittura l'incontro di DJ Caruso, il regista, con un altro, con un mito del cinema americano quale è John Badham. Grazie allora Claudio Pofi, vi ricordo l'appuntamento la prossima settimana con i DVD, tra l'altro Claudio staremo insieme tutto il mese di agosto con le recensioni, quindi avremo possibilità di parlare di tanti film anche durante questa calda estate. Benissimo, a presto, un saluto. E siamo giunti alla fine della Rosa Purpurea di questa settimana. Io vi ricordo l'appuntamento al prossimo weekend, il sabato alle 18, la domenica mattina in replica alle 9, ma vi ricordo anche che lunedì sera saremo insieme dalle 18 e così tutti i giorni della settimana con La Vita in un Film, l'altro programma quotidiano di quest'estate di Radio 24 sul cinema. Lunedì tra l'altro sarà nostro ospite Sergio Castellitto e parleremo di italiani all'estero. Potrete ovviamente intervenire in diretta e ricevere bellissimi e tantissimi soprattutto biglietti per andare al cinema. Quindi ci sentiamo lunedì prossimo, grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.